La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato all'attacco di Via Rasella a Roma del 23 marzo 1944. Proprio in questi giorni, secondo la Corte di Cassazione, quella di Via Rasella fu una legittima azione di guerra contro il nemico occupante. Ospite ai nostri microfoni, Stephen Prauser, direttore del Centro Studi sulla Seconda Guerra Mondiale dell'Università di Birmingham. Nella seconda parte vi proponiamo un estratto della conferenza dal titolo «Il capitalismo volatile, le vie d'uscita dalle crisi economiche in prospettiva storica», che si è tenuta durante E-Storia, il quinto festival internazionale della storia di Gorizia. Ma adesso la parola va a Dino Pesole. I partigiani che il 23 marzo del 1944 condussero l'attacco di Via Rasella a Roma, in seguito al quale i nazisti compirono l'eccidio delle fosse ardeatine, non furono dei massacratori di civili. Quindi commette reato di diffamazione chi li definisce tali. È quanto ha stabilito lo scorso 22 luglio la Corte di Cassazione. Secondo la Suprema Corte, quella di Via Rasella fu una legittima azione di guerra contro il nemico occupante. La Cassazione ha accolto così la richiesta di risarcimento di danni morali avanzata nei confronti di un quotidiano da Elena Bentivegna, figlia della gappista Carla Capponi e di Rosario Bentivegna, che parteciparono all'azione. In tal modo la Cassazione ha contestato la decisione con cui la Corte di Appello di Roma nel 2004 aveva respinto la richiesta di risarcimento danni, ritenendo legittimo l'uso di un simile termine in quanto quell'azione, così sentenziò la Corte d'Appello, era un gesto certamente violento e fu un inutile massacro. Per i giudici della Cassazione, quell'affermazione invece della Corte d'Appello risulta lesiva della dignità e dell'onore dei destinatari. È il 23 marzo del 1944, prime ore del pomeriggio. Roma è occupata dai nazisti. Un giovane partigiano di 22 anni, Rosario Bentivegna, appartenente ai gruppi di azione patriottica che lottano in clandestinità contro i tedeschi, nome di battaglia Paolo, vestita da spazzino, è in via Rasella, a due passi da via Quattro Fontane e da via del Tritone. Nel carrettino davanti a lui, nascosti vi sono 18 chili di tritolo. 160 uomini della polizia nazista cominciano a salire per via Rasella cantando. Bentivegna alza il coperchio del bidone e avvicina il fornello della pipa alla miccia. A due passi da lì ad attendere Rosario è Carla, la sua compagna e futura moglie. Pochi secondi per fuggire, poi è l'inferno. Il boato enorme dell'esplosione squassa il centro della città. Raul, Silvio e Francesco, gli altri componenti del comando, in tutto sono 12, scagliano le loro bombe a mano sulla pattuglia. Una scena da apocalisse. 33. I corpi dei soldati tedeschi senza vita. Come sappiamo, Via Rasella è l'episodio più controverso della Resistenza, come mostra appunto questa lunga vicenda giudiziaria che lo ha accompagnato negli ultimi decenni. La rappresaglia nazista, come è noto, fu violenta e immediata e costò la vita a 335 persone, portate di forza e trucidate a gruppi di 5 con un colpo alla testa alle fosse ardeatine. Ecco come lo stesso Bentivegna ha raccontato nel suo libro Achtung Banditen, prima e dopo Via Rasella, gli attimi che precedettero l'attentato. Si avvicinarono a me, ebri di sicurezza e di un sole usurpato che non era il loro. Non erano loro quella primavera, quei colori. Erano loro il terrore, la morte che avevano seminato per le vie di Roma, la guerra che avevano portato dentro le case e le scuole, ma anche la morte, che era in agguato sulle montagne e dietro gli angoli delle nostre strade, cui non servivano da freno il coprifuoco e la fame, le rappresaglie e le torture. La morte che li colpiva improvvisa, che li terrorizzava e dava l'avviso di una giustizia che non avrebbe tardato troppo a sopraggiungere. E questo è il comunicato dell'agenzia di stampa Stefani del 25 marzo 1944 che dava notizia dell'avvenuta rappresaglia. La vile imboscata di Via Rasella è stata eseguita da comunisti badogliani. Sono ancora in atto le indagini per chiarire fino a che punto questo criminoso fatto è da attribuirsi ad incitamento anglo-americano. Il comando tedesco è deciso a stroncare l'attività di questi banditi scellerati. Nessuno dovrà sabotare impunemente la cooperazione italo-tedesca nuovamente affermata. Il comando tedesco, perciò, ha ordinato che per ogni tedesco ammazzato, 10 criminali comunisti badogliani saranno fucilati. Quest'ordine è già stato eseguito. Abbiamo in linea Stephen Prauser, direttore del Centro Studi sulla Seconda Guerra Mondiale dell'Università di Birmingham. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei. Allora, come va interpretata questa sentenza della Cassazione? Io mi domando, che forse chiude una faccenda lunghissima, che se ricordiamo anche negli anni 50 già i partigiani della Via Rasella si trovavano davanti in giudice per giustificare la loro azione. Non lo so se è l'ultima parola, però sarebbe forse il momento di chiudere la faccenda, non lo so. Sì, ecco, perché è una faccenda appunto che ha un risvolto giudiziario molto lungo, anche un po' anomalo. Non so se ci sono dei riscontri in altri paesi. Io almeno posso parlare dell'Europa occidentale e non c'è una faccenda simile. Nonostante il fatto che attacchi simili avevano luogo anche nel resto dell'Europa, evidentemente. Per questo è un po' particolare questo caso. Ecco, ma dal punto di vista storico, Via Rasella si può, ormai a distanza di oltre 60 anni, definire una legittima azione di guerra contro il nemico occupante oppure un'azione terroristica? La logica evidentemente può essere forse chiamata terroristica, però questo, qualsiasi azione resistenziale ha questa logica, è inevitabile, però sul livello di legittimità tutta la resistenza sarebbe illegale sotto questo punto di vista. Se non accettiamo la Via Rasella, la resistenza generalmente sarebbe illegale. E questo è il problema che io vedo spesso, che la Via Rasella, spesso la stessa persona accuse i partigiani della Via Rasella di essere assassini, mentre sì, è d'accordo che la resistenza era un fatto nazionale importante e positivo, e questa è una contraddizione, perché quando la resistenza ha attaccato un plotone tedesco in Campania e i tedeschi hanno fatto una rappresaglia in Campania, vuol dire che era legale, e solo perché è successo a Roma, e poi anche la responsabilità dei partigiani per la reazione tedesca non è molto logico. Ecco, questa è una questione molto complessa, lo chiedo a lei come storico autorevole che lavora da anni anche all'estero, ma il motivo essenziale secondo lei per il quale l'Italia ancora non ha fatto del tutto i conti con il suo passato? Allora, la Via Rasella, evidentemente il problema è che i partigiani non erano partigiani della Democrazia Cristiana, erano partigiani comunisti, che evidentemente nel clima italiano, forse pure attuale, io mi ricordo, mi sono allontanato dall'Italia qualche anno fa, però all'epoca io mi ricordo ancora che in Parlamento si chiamavano comunisti e fascisti tra di loro. Allora il termine comunista e fascista in Italia, fino a poco fa, forse ancora oggi, aveva o ha un significato diverso che dell'est dell'Europa, e viene utilizzato ancora come quasi diffamazione, fra virgolette, dell'avversario politico. Per ritornare alla responsabilità della Via Rasella, o diciamo la responsabilità dei partigiani, la logica che dice i partigiani non avrebbero dovuto attaccare i tedeschi perché i tedeschi prendevano le rappresaglie, è poco logico per me. Perché vuol dire, se i tedeschi fossero stati dei occupanti simpatici, buoni, allora si attacca ai tedeschi perché niente succede. Se io ho capito bene, un motivo per la resistenza, a parte di motivi politici, era anche perché l'occupazione tedesca non era tanto simpatica. Certo. Allora vuol dire che uno attacca l'occupante perché l'occupazione è veramente feroce. Noi dobbiamo fare un lavoro di storicizzazione del diritto internazionale, se lo utilizziamo come storici. All'epoca il diritto internazionale era principalmente il diritto consuetudinario e qualche convenzione di Haia del 1907 principalmente. Secondo questo diritto internazionale, fatto e creato da potenze che erano sempre occupanti normalmente, non occupati, le regole erano quelle che qualsiasi resistenza civile era considerato illegale da questi occupanti, e questo dobbiamo tenere in mente. E questo è vero per tutto, anche abbiamo considerato le resistenze dei paesi coloniali illegali. E questo secondo me è una cosa importante, non è via Rasella. Via Rasella fa parte di un concetto molto largo di resistenza e di occupazione, e questo si deve comprendere. La storia e la memoria torna tra poco, restate con noi. La storia e la memoria. Ben ritrovati alla Storia e la Memoria. Vi proponiamo ora un estratto della conferenza dal titolo Il capitalismo volatile. Le vie d'uscita dalle crisi economiche in prospettiva storica che si è tenuta durante il festival È Storia di Gorizia. La crisi economica in atto ha suscitato interpretazioni e parallelismi di ogni tipo. La crisi del sistema finanziario americano nel 1907, il crollo di Wall Street del 29 e le sue drammatiche conseguenze, ma anche la crisi petrolifera del 1979. Il senso di smarrimento che molti hanno provato deriva dal comportamento della nostra economia e dalla debolezza dimostrata ancora una volta dal capitalismo in un periodo di massima instabilità. Mimmo Franzinelli, storico e studioso della storia italiana del Novecento, confronta l'esperienza italiana del 29 sottolineando l'importanza che ebbe Alberto Beneduce, padre della finanza dell'Italia negli anni 30. Beneduce è un personaggio sui generis, perché Beneduce viene posto da Benito Mussolini durante il regime fascista, dopo il superamento della crisi Matteotti, viene messo in posizione di dominio sulla finanza italiana, ma la sua storia ha poco o niente a che spartire fino al 23-24 con il fascismo. E per essere subito espliciti, è un massone, e sappiamo che Mussolini e il fascismo hanno fatto della pregiudiziale antimassonica uno dei loro principi, hanno messo fuori legge la massoneria. Era un nittiano, e Nitti è costretto subito ad andarsene in esilio perché gli squadristi gli sfasciano il suo villino a Roma. Allora cos'è? Mussolini si è bevuto il cervello? Assolutamente no. Beneduce, quindi, che nasce in un ambito social riformista e nasce come statistico e come studioso anche dell'emigrazione italiana. Nitti che è ministro dell'industria, ministro radicale liberale, capisce che questo giovane tecnico di estrazione sociale povera, disagiata, in provincia di Caserta, che diventa un infimo funzionario ministeriale, merita fiducia e di grado in grado, proprio dalla gavetta, si fa un nome come studioso già nell'anteguerra. E durante la Grande Guerra, che è, come sappiamo, anche una catastrofe dal punto di vista economico, ha una trovata decisamente geniale, cioè lui elabora proprio a partire dagli studi di statistica un'assicurazione del soldato e dell'ufficiale che, per dirla in modo molto povero, dà la sicurezza a chi è al fronte che, nel caso sventurato di una loro morte, la famiglia non sarà sul lastrico, ma grazie alla polizza del combattente avrà modo di vivere in forma dignitosa. E poi si occupa sul problema delle assicurazioni, sull'Istituto Nazionale Assicurazioni, diciamo che è il fondatore. E dopodiché insieme a Nitti scende in politica e siamo nel immediato primo dopoguerra. La rilevante novità delle elezioni del novembre 19, le prime elezioni a suffragio universale maschile, quindi cambia il sistema politico italiano e, diciamolo pure, è la crisi del sistema liberale, un sistema basato su clientele, su notabili, e che mal regge alla forma partito perché non gli si addice. Fatto sta che Beneduce diventa deputato di una lista combattentistica. Lui di fatto combattente non è stato volontario, ma è stato uno dei tanti chiamati per la sua classe di età, e poi per qualche tempo, peraltro nemmeno troppo, pochissimi mesi, nelle retrovie. Dopodiché è stato rimandato a Roma lui e tanti altri erano più di peso che non di utili all'esercito, quindi li hanno rimandati in una licenza che poi si è trasformata in una situazione, diciamo, stabilizzata. Fatto sta, dicevo che il suo apporto lui lo dà non al fronte ma negli uffici di Roma con questa polizza del combattente, e diventerà ministro del lavoro. Ecco, come ministro del lavoro si rende conto di una crisi gravissima del sistema liberale, e secondo me è lì che Beneduce a livello tecnico-politico comincia a guardare lontano, ma è assolutamente consapevole di non avere degli strumenti, perché il sistema di cui lui è ministro, il sistema liberale, è oramai in totale disfacimento, e quindi Beneduce assiste, mentre è al governo, il governo Bonomi, all'avanzata del fascismo, e assiste innanzitutto in molte situazioni, critica lo stesso Presidente del Consiglio Bonomi, perché Beneduce vorrebbe il rispetto delle leggi e Bonomi è più o meno incline a una sostanziale, non dico intesa, come sarà poi con Giolitti che si presenta con i fascisti alle elezioni della primavera del 21, però non si oppone ai fascisti. E a un certo punto Beneduce vuole dimettersi, poi resta al suo posto, così per fare un favore a Bonomi, ma lì finisce la sua esperienza politica. Quindi la sua esperienza politica dura un paio di anni e poi ritorna a fare il tecnico in un contesto politico che è profondamente mutato dalla marcia su Roma in avanti, e potrebbe tornare a fare il travè, a fare l'impiegato ministeriale, se non fosse che Mussolini, quando ancora non era il duce del fascismo, quando nel 20 c'è il governo Bonomi, da direttore del Popolo d'Italia, scrive un articolo di commento all'insediamento del nuovo governo Bonomi, che appunto sostituisce quello Nitti, dimissionario, e praticamente dice di questo governo che vale qualcosa è Beneduce. Ecco, questa considerazione, questa stima personale, è la carta fortunata di Beneduce, perché viene tra virgolette ripescato un Beneduce da Benito Mussolini, che sa che il personaggio è tutt'altro che fascista, perché il regime fascista, quando va al potere, non è che sia un regime molto solido. E poi il terreno più delicato è il terreno internazionale, e sul terreno internazionale Beneduce è un personaggio quotato, in grado di reggere il confronto con banchieri, con governatori di altre nazioni, e quindi i primi servigi a livello economico-finanziario li rende proprio sul terreno internazionale. E poi sulla crisi del 29 lui ha l'impressione, e non è certo una millanteria, che in quel contesto di gravissima crisi economica, che può diventare facilmente una crisi sociale, quindi possono esserci delle proteste, delle manifestazioni, ed è una cosa che il regime fascista teme molto, perché coltiva il consenso attraverso, come sappiamo, sia la messa fuori legge delle opposizioni, sia il potenziamento della polizia. Polizia, in particolare l'ovra, utilizzata anche per la induzione del consenso. Ad esempio, per studiare l'economia del regime fascista, io credo che una fonte fondamentale siano proprio i rapporti dell'ovra. E potreste dire, ma è assurdo, l'ovra non si occupava solo degli oppositori politici. No. Non essendoci la stampa libera, quindi non c'era una palestra di discussione economica anche rispetto alle soluzioni della crisi, il regime aveva bisogno di conoscere l'opinione dei cittadini, e allora ecco che utilizzava, diremmo oggi a modi di doxa, utilizzava i suoi informatori, utilizzava non funzionari di polizia, ma invece personaggi che andavano dagli avvocati ai giornalisti, agli insegnanti, e che riferivano mensilmente, in quanto appunto arruolati in questa straordinaria struttura poliziesca, perché secondo me Mussolini fu anzitutto un grande ministro di polizia. E questi rapporti noi possiamo trovare la percezione dei vari strati dell'opinione pubblica sulla situazione economica, sulle difficoltà della vita in quel determinato periodo, in quella classe sociale e in quella plaga geografica. E quindi ecco che paradossalmente il regime ha lasciato ai posteri, agli studiosi, attraverso le carte di polizia, degli strumenti molto utili per un'analisi, direi anche socio-economica, della fine degli anni 20 e soprattutto degli anni 30. Quando arrivano le ripercussioni pesanti della crisi del 29, Beneduce si accorge della priorità, cioè quella di evitare che le banche saltino per aria sul modello di quanto è avvenuto negli Stati Uniti, e quindi è un Beneduce che, forte della chiamata e dell'approvazione di Mussolini, poteva dire di no anche a un Farinacci, anche a un Pavolini, quindi aveva questo potere non da poco. E un Beneduce che non diventa fascista, io direi era afascista, e anzi, se prestiamo fede alle memorie di Giorgio Amendola, comunista, figlio di un ministro liberale, mi avvio alla conclusione, quando viene rilasciato dal confino, Amendola viene avvicinato da Beneduce che gli propone di entrare all'IRI, e lui rifiuta perché si considera rivoluzionario professionale e poi va all'estero. Ma tra i patrocinati da Beneduce c'è Enrico Cuccia, che sposa una sua figlia e quindi si forma proprio nell'entourage di Beneduce, che lo considera un giovane molto intelligente e anche aggiunge in una riflessione molto consapevole della sua intelligenza. E allora, in conclusione, cosa lascia in eredità? Beneduce poi morirà nel 44, ma vi dico subito che dopo il 38-39 la sua influenza è minore per questioni soggettive, perché ha avuto un ictus nel 37 che lo ha molto molto indebolito. Nel 39 verrà nominato senatore, così per dargli un riconoscimento ufficiale. Ecco, lascia in eredità gli enti Beneduce, che per 30-40 anni svolgono ancora una mansione, anche se progressivamente la loro capacità incisiva rispetto alle situazioni economiche diminuisce, perché aumentano i criteri, diciamo, di condizionamento politico rispetto ai criteri di gestione economica. E poi, appunto, personaggi come Enrico Cuccia o altri, se vogliamo, più discussi, che si erano formati ancora con Beneduce, come il governatore della Banca d'Italia Azzolini. E allora io credo, tutto sommato, che il suo lascito sia positivo, anche se sul personaggio non vorrei darvi l'impressione di essere acriticamente un suo laudatore, perché non c'è dubbio, nella sua storia personale molto variegata c'erano anche tratti, diciamolo pure, di opportunismo politico, c'erano scarti e passaggi che è difficile approvare, anche se comunque bisogna interpretarli. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Un ringraziamento in redazione a Vittoria Mussini. Buonanotte.